בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. Amici di Blu Radio Veneto, buonasera a tutti, benvenuti nelle nostre frequenze. Inizia anche questa sera Blu Time Live, l'appuntamento del martedì sera di oggi 18 giugno del 2013, dove abbiamo un appuntamento speciale per quanto riguarda il live, un'intervista con l'ascolto di molti brani pregiati e preziosi, mi sentirei di dire già in principio. Con me, con Flavio Bilato, c'è anche Vannuccio Zanella, che saluto. Buonasera Flavio. Coppia inedita e inconsueta per questa sera, ogni tanto ci si ritrova Vannuccio. Eh sì, sempre molto volentieri, perché Blu Radio Veneto è veramente una radio molto speciale, quindi ci tengo molto. Grazie, grazie Vannuccio per essere sempre portatore di novità all'interno di Blu Radio Veneto. Allora, in questa serata avremo modo di conoscere da vicino la musica un ospite che è venuto a trovarci da quel di Mestre, quindi ha fatto parecchia strada, diciamo, quindi lo salutiamo, diamo il benvenuto ad Alessandro Monti. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato qui, e faremo una carrellata anche sull'etichetta questa, anzi direi non etichetta, perché in realtà non esiste, è gestita dai musicisti, però ne parleremo dopo. Certo, avremo modo anche di approfondire quello che è tutto il mondo musicale di Alessandro Monti, partendo subito da quelli che sono i CD che io ho davanti al mio banco mixer e che con Vannuccio presenteremo e approfondiremo anche gli argomenti, che sono assolutamente tanti. Quindi cominciamo dal principio, come si dice, Vannuccio. Provo io? Sì, provo. Allora, strano titolo per un CD, sì. Che si intitola Unfolk. Unfolk è un po' particolare, vero Alessandro? Perché letteralmente uno potrebbe anche interpretarla come impopolare, forse, no? Bella questa, non avevo pensato a questa possibilità. Insomma, l'un diventa il negativo inglese, folk è popolare. Forse impopolare perché la musica non è semplice, quella che ci propone Alessandro Monti, è una musica raffinata, colta, ha le sue sicuramente delle radici in quello che era davvero il folk, anzi più specificamente il folk inglese, il folk progressivo inglese, di gruppi come i Pentangle, come Fairport Convention, come Amazing Blondel. Sicuramente, diciamo. Sicuramente. Forse anche la fascia d'età è quella che ha amato particolarmente questo tipo di... Mi piace perché tu hai citato Amazing Blondel, che di solito fanno inorridire quelli che ascoltano folk, perché in realtà non fanno folk, invece per noi sono stati molto importanti perché hanno fatto da tramite tra i progressivi e il folk, no? Esattamente, secondo me, insomma, Fantasia Lindum e assolutamente Amazing Blondel sono due album fondamentali per il periodo che va dai fine anni 60 a primi anni 70. Volevo anche dire un'altra cosa, perché Alessandro bravissimo ha citato l'etichetta, volevo anche ringraziare Nino Destra, che è qui con noi, che invece è uno dei distributori con la GT Music dell'etichetta di Alessandro, di cui parleremo comunque molto meglio dopo. Quindi grazie a Nino Destra, che è qui con noi e ci sta ascoltando, l'ascoltatore doc in questo momento. Assolutamente. Allora, torniamo al disco di Alessandro. Sì. Diciamo un disco particolare, riscoperto dopo qualche anno, giusto Alessandro? Sì, diciamo che questa edizione nuova arriva esattamente 6 anni dopo l'uscita vera e propria del disco, perché alla fine era esaurito, ho deciso di ristamparlo e l'ho fatto in un'edizione, chiamiamola deluxe, con un disco dal vivo in più, insomma. Beh, il disco è assolutamente, ribadisco, è molto bello di suo, impreziosito in questo modo lo rende ancora più appetibile, se vogliamo. Anche perché nel secondo disco tu hai messo la parte dal vivo di quello che invece poi è il secondo disco, esatto, di Unfolk, ma lo sentiremo dopo. Io direi, parlaci un attimino dell'ispirazione che ha fatto questo primo disco. È stata una cosa quasi casuale. Io avevo lavorato molto in varie situazioni, vari gruppi, avevamo fatto anche un paio di dischi che adesso sono valutatissimi con un amico che si chiama Gigi Masin, e avevo collaborato a varie band della zona di Mestre e Venezia, però non avevo mai pensato di fare un disco mio da solo. In realtà la cosa era nata per caso, per il desiderio di fare tutta una serie di registrazioni con gli amici, e quindi Sono andato in Irlanda, ho comprato un mandolino particolare e l'ho lasciato chiuso in questa custodia per molto tempo. A un certo punto, dopo qualche anno, l'ho aperta e ho cominciato a suonarlo tutti i giorni. Insomma, è venuto fuori qualcosa di veramente speciale. Ho cercato di capire come funzionava. Io suono solo il basso, in realtà ho suonato un po' la chitarra, però il mandolino era uno strumento nuovo, però mi piaceva da matti. Probabilmente tutto è partito con un pezzo delle Zeppelin che si chiamava The Battle of Evermore, che mi era piaciuto da pazzi, e quindi avevo cominciato da lì. E così abbiamo cominciato a fare delle registrazioni. Io davo queste basi a tutti i miei amici, sapendo esattamente però a chi le davo, quindi sapevo che effetto avrebbero avuto e che trattamento ci sarebbe stato. È venuto fuori questo album che è stato accolto molto bene e che adesso noi riproponiamo in una versione rimasterizzata. Per fortuna sono riuscito ad avere una grossa dritta da John Astley, che poi ha curato alcuni dischi grossissimi tra George Harrison, Led Zeppelin, ha fatto il remastering anche di Led Zeppelin, avevo detto sì, per qualcosa degli Stones e moltissime altre cose, gli Who ad esempio, addirittura lui ha uno studio dove Pete Townshend aveva il suo vecchio studio di incisione, quindi insomma diciamo che c'è una magia un po' particolare. Benissimo, allora Vannuccio, direi che possiamo iniziare a conoscere meglio quella che è la musica che ci viene a proporre questa sera Alessandro Monti, cominciando proprio da questo che è il lavoro che si intitola Unfolk, e quindi diamo ascolto a questo Il sogno di Devi qui a Blu Radio Veneto. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Andiamo a salutare gli ascoltatori distratti che sono entrati solo per caso o per gioia di ascoltare Alessandro Monti, che ci sta proponendo la sua musica. Ancora una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e di chi conduce insieme alla trasmissione, ovvero Vannuccio Zanella. Allora, il sogno di Devi, collocato in primis in questo Unfolk che stiamo ascoltando, ricordiamo il lavoro che è stato rimasterizzato recentemente e fa parte di una vecchia produzione del 2006, Alessandro. Sì, ogni strumento che avevo raccolto in giro per il mondo poi alla fine è stato usato in questo disco. Per me è anche un po' un'antologia di cose che ho visto e ascoltato in giro. C'è molta influenza per esempio della musica greca, della sì, musica... sentivo in effetti anche le campane tubolari. Quelle sì, sono una cosa che ho preso a Creta, hanno una scala pentatonica stranissima che non è come la nostra, e sono l'introduzione del disco. Poi ci sono influenze indiane, arabe di vario tipo, poi c'è Bebo Baldan che partecipa con parecchi strumenti etnici, per cui è una cosa che secondo me è un po' il folk, come l'ha definito qualcuno dei nostri sogni, nel senso che passa attraverso tutti gli stili che abbiamo ascoltato. Però io credo che la world music sia una delle cose più affascinanti del mondo e ci sia sempre qualcosa di fantastico da ascoltare. Vabbè, sicuramente vale sempre la pena, no? Come succedeva forse nei primi anni 70 e l'abbiamo in qualche maniera riscoperto ultimamente, quello di riuscire a mettere insieme diverse strutture musicali e diverse culture musicali soprattutto, cosa che l'Occidente da un certo punto di vista non è mai stato molto molto bravo a fare, se devo essere onesto. Però devo dire che per esempio in questo caso l'uso del mandolino si è sentito benissimo, strumento che noi associamo purtroppo da un certo punto di vista e anche molto limitatamente a quella che potrebbe essere una cultura partenopea forse, ma non è così insomma il mandolino. Però devo dirti una cosa, è curioso quello che dici, perché è vero che quello che uso io è un mandolino irlandese, quindi è completamente diverso dal nostro, non ha quella parte bombata, è una chitarrina così a forma di goccia, no? Però è anche vero che sono stato un grande amante, e lo sono tuttora, della nuova compagnia di canto popolare. E credo che questa cosa sia collegabile a livello italiano. Quindi Eugenio Bennato Docet in questo caso. Sì, sì, anche musica nuova. Sì, è musica nuova soprattutto. Ma sai, questo è un po' il riassunto di quello che si diceva un attimo fa, esattamente come mettere insieme poli opposti musicalmente parlando. E cosa che magari riusciva molto più facile nei primi anni 70, mentre adesso tendiamo a sofisticare addirittura troppo questo discorso. Dall'ascolto del tuo disco, io ho avuto già la fortuna di ascoltarlo ovviamente per intero e più volte, devo dire che fortunatamente non si sente questa edulcorazione del discorso. In fin di conti, una volta che si era partiti da Peter Gabriel, che aveva cominciato con Brian Eno, con David Byrne, ad avere le prime contaminazioni etniche in qualche modo, effettivamente lo sviluppo è stato fatto talmente in maniera artificiosa da renderlo addirittura quasi esagerato. Sì, c'è stato anche un uso massiccio dell'elettronica che in qualche modo ha deviato un po' il percorso. A me piace quando c'è una contaminazione dell'elettronica, ma quando si sentono molto bene anche gli strumenti suonati. Beh, soprattutto gli strumenti acustici in qualche modo, e un po' come prima ne parlavamo fuori entrando qui in radio, come facevano per esempio un gruppo per me carissimo che sono i Pierrot Lunaire, dove si usava dal sitar al tamburello, a quelle strumentazioni molto particolari che loro in qualche maniera riuscivano a far entrare, forse quasi unici fra gli italiani a far entrare in un mondo di sogno che è un po' quello che ascoltiamo anche nel tuo disco. Sì, ero molto piccolo, li ricordo alla radio, poi chiaramente li ho riascoltati e c'erano alcuni gruppi in quel periodo che cercavano di orientarsi verso un folk che fosse un folk comunque un po' personalizzato. Erano i Pierrot Lunaire, c'erano anche i Saint Just, mi ricordo, c'erano anche dei gruppi come abbiamo Jenny citato Sorrenti. Prima, esatto, e Actual, di cui parlavamo prima, che facevano una sorta di improvvisazione etnica molto più vicina alle cose medio orientali. Però è curioso, perché poi alcune recensioni l'hanno citato a proposito del mio disco, io ho chiesto proprio a Mannuccio che mi piacerebbe riascoltarli dopo tanto tempo, insomma. Vabbè, vediamo di, vedremo anche di accontentare Alessandro anche in questo punto di vista. Però Alessandro, tu mi parlavi anche di un'altra cosa, il tuo concetto di unfolk. Sì, in realtà era nata dall'idea di una musica, volevo chiamarlo non folk, poi chiaramente era una curiosa negazione, non è che fosse proprio il massimo, no? In fondo noi diciamo folk per dire musica popolare, che viene poi generalmente trasmessa oralmente, quindi insomma una cosa particolare. Folk è diventato un termine che non so, vuol dire solo gente, vuol dire anche proprio musica folk, no? Per cui dire unfolk poteva essere unorthodox, quindi non ortodosso, e unknown, non conosciuta, no? Quindi sconosciuta, e quindi è venuto fuori questo unfolk che poteva essere una tradizione nuova, sconosciuta quasi, no? Per cui... Beh, sai, è sempre importante dare inizio a qualche stilema nuovo, se non proprio uno stile. Cosa dici, Flavio? Beh, assolutamente, assolutamente sì, e in questo ci ha messo molto di originalità, soprattutto diciamo in questa facile traduzione in italiano, mentre magari gli inglesi continuano a chiamarla, non so, in una sì, altra propria maniera. È curioso, sai, sì, perché in realtà quando è venuto fuori questo disco, su Wikipedia è venuto fuori una pagina, si chiamava Unfolk, io non ne sapevo niente, l'ho beccata una volta per caso su Google, no? Adesso è stata sostituita da una pagina che si chiama Anti-Folk, che non ha lo stesso significato, no? Però io sul disco ho scritto dietro, sul retro, proprio l'originaria definizione e dove avevano citato il mio disco, proprio su Wikipedia. Francamente mi ha fatto molto piacere a quel tempo, perché è una... mi avevano associato, secondo me, a dei musicisti che erano anche troppo importanti, ma comunque... Vabbè, no, beh, assolutamente, visto il lavoro che stiamo ascoltando è di un buon livello, assolutamente, quindi associarsi, essere associato, Alessandro, a degli artisti importanti, insomma, fa pure piacere, sì, voglio sì, dire. Sì, no, ma sicuramente mi ha fatto piacere. Onore, e uno vuol dire che infatti ci ho sta, deciso insomma di citarlo, anche perché poteva essere un'indicazione per chi lo trovava e diceva, ma cos'è sta roba? E dietro c'è scritto qualcosa. Vabbè, allora ci ascoltiamo un altro pezzo per ancora ascoltare la musica di Alessandro Monti, questa volta diamo spazio a Raga, questo... sì, è un pezzo dove suona un amico d'infanzia che è Alex Masi alla chitarra. Raga, del fiume elettrico si chiama così, e l'ascoltiamo all'interno della programmazione musicale di Blue Timeline qui a Blue Radio Veneto. atmosfera assolutamente magiche, quelle che stiamo ascoltando qui all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto. Abbiamo il piacere di avere con noi Alessandro Monti per la presentazione del suo progetto chiamato Unfolk, e quello che ci stiamo ascoltando ancora in sottofondo, lo terremo ancora per qualche minuto, è Raga del Fiume Elettrico, una musicalità eccezionale iniziata quasi ai bordi di un ruscello, Alessandro, con tutti questi uccellini che danno una sensazione di tranquillità massima. Sì, è nato per rappresentare un po' quello che avevo vissuto un po' in India come atmosfere, così. Poi in realtà è stato tratto da una lunga improvvisazione, abbiamo tagliuzzato tutto, sovrainciso le parti, ho risuonato sopra bassi, tabla, insomma è venuta fuori una cosa totalmente da studio che sarebbe irriproducibile dal vivo, ma comunque... È interessante che all'interno ci suona Alex Masi, che in realtà di tutti gli amici che suonano in questo disco è il mio più vecchio amico d'infanzia, perché abbiamo condiviso dall'asilo fino alle superiori. Poi lui è emigrato in America e ogni tanto lo vedo. Insomma, insomma non fa mai male rinnovare le amicizie, soprattutto se portano a questi risultati, no? Sì, certamente dove mette le mani di solito fa un gran bel lavoro. C'è un altro pezzo nel disco dove suona, si chiama Aerofolk, ed è... totalmente diverso, molto più vicino alle Zeppelin, secondo me c'è una chitarra un po' più heavy, un po' più forse vicino al metal, secondo me. Beh, ecco, una delle caratteristiche che io personalmente ho trovato in questo disco è stata proprio anche la varietà delle composizioni che vengono inserite. È vero che è stato un po' il compendio di un lavoro di tanti anni, per cui avevi anche materiale su cui scegliere molto probabilmente. Volevo anche però, proprio per questo, dire come invece ultimamente riusciamo ad ascoltare dei dischi, magari anche proposti come musica colta, che però sono tutti uguali dall'inizio alla fine. Secondo te esiste un problema compositivo? Esistono dei tempi troppo stretti per le persone per far uscire un disco? Esiste anche una presunzione dell'artista che a tutti i costi deve piacere quello che fa? Sì, credo che, a parte il problema culturale e forse anche dovuto ai tempi che non sono più quelli sperimentali o di fermento di una volta, però credo che tante volte le persone forse fanno l'errore di una certa presunzione nel volere per forza fare una cosa che resta nel tempo, che sia una cosa fantastica, che un disco superiore alla media. In realtà spesso i dischi nascono così per caso, io l'ho fatto quasi per divertimento per me stesso ed è venuto fuori una cosa che è molto bella, grazie però a tutti gli interventi di tutte le persone. Quindi credo che certe volte le cose più belle sono proprio quelle casuali. Non devi mai partire dall'idea di avere un qualcosa di speciale in mano, ma secondo me devi farlo spontaneamente e soprattutto con il cuore. E questo direi che in generale dovrebbe essere anche lo spirito con cui si costruisce un disco, perché un'altra polemica mia in questo caso, che sto portando avanti da un po' di tempo, è quella legata ai dischi dove ci sono tantissimi ospiti illustri, no? Che tra l'altro poi questi neanche si incontrano con l'artista, cioè mandano i files, questi ci registrano la parte sopra, quindi direi che senso ha avere questi grossi personaggi che poi non hai neanche modo di parlargli, cosa gli dici? Assolutamente sono d'accordo, infatti sì. È un problema grosso e spesso sono dischi solo costruiti per far vendere un prodotto che poi in realtà la gente non compra neanche solo per quel nome in realtà. Esatto, per cui insomma, invece come ci giustamente ci testimonia Alessandro, i contributi in questo disco sono sempre stati personali. Sì, e poi tu giustamente hai detto una cosa che ho notato anch'io quando ho avuto in mano sto master finale del disco, ho detto però effettivamente è vario. E credo che questo sia stato, io l'ho chiamato collettivo Unfolk alla fine, il gruppo che è derivato da questo, perché poi il progetto si è evoluto ed è diventato un gruppo con cui abbiamo suonato dal vivo, ma l'idea del collettivo mi è piaciuta perché ognuno ha dato il suo contributo. Infatti ho scritto che gli arrangiamenti sono collettivi, perché in realtà i miei file di partenza erano delle basi nude e crude, certo. E se tu sentissi come erano probabilmente ne sarebbero irriconoscibili. Quindi la dolce differenza tra quello che può essere un collettivo e un gruppo musicale consolidato, quale potrebbe essere, Alessandro? Che nel collettivo secondo me non c'è un leader vero e proprio, un ego. In realtà il disco ha un nome, è sotto il mio nome, Alessandro Monti, semplicemente perché ho organizzato questa cosa dal punto di vista della produzione, però credo che si senta perfettamente il contributo di tutti. e credo che l'idea del collettivo sia proprio questa, una musica che viene fatta comunque da un gruppo di persone, non da un leader o da due leader che impongono la propria personalità. No, ma infatti finché ne parlavamo mi veniva in mente forse uno dei più almeno famosi e longevi collettivi tedeschi, che erano gli Embryo. Ah, fantastici. Ecco, hai presente? E anche loro avevano questo tipo di mentalità nel costruire i dischi, no? Fantastico. E hai citato i tedeschi, che sono tra le influenze più belle, insomma, secondo me, di questo disco. Qualcuno le ha accolte sulle recensioni. C'è un inglese che ha accolto Cana, Mondul, Embryo, queste cose qua. E secondo me è vero, nel senso che loro hanno in qualche modo dato un'idea di gruppo senza una personalità in evidenza marcata, ma proprio un lavoro collettivo. Questo è assolutamente vero, sono d'accordissimo con te. I tedeschi in questo senso hanno fatto cose molto avanti. Sì, sì, Popol Vuh, tutto quel periodo della musica cosmica. Beh, giustamente mi fa segno Alessandro. sul disco c'è un brano che è dedicato a Florian Frick. Ecco, chiudi così. Quindi è stata una cosa molto strana quella, perché io ho sempre amato i Popol Vuh e lui è morto improvvisamente, e così con degli amici volevamo fare una specie di tributo. In realtà il disco era ancora in alto mare, però era una cosa nostra, personale. E quello che tu consideri il mentore nascosto. Sì, secondo me sì. In realtà Florian Frick, Popol Vuh e le colonne sonore, soprattutto per i film di Herzog, sono delle cose talmente straordinarie che probabilmente hanno influenzato tutta una generazione, assolutamente. Allora, proprio per... Io direi di fare una cosa di questo Dimmi, tipo. Dimmi, Claudio. Sì. Proprio per sentire, secondo me, da dove vengono le primissime influenze per Alessandro, ascolterei il brano numero 11 sì, di questo disco. Che è già pronto per partire. Che è già pronto e che ha un riconoscimento a quello che potrebbe essere uno delle hit, chiamiamolo, oppure del XIV secolo. Ed era un brano che in qualche modo è entrato a far parte della musica popolare e folcloristica nostra, si intitola La Rotta. Normalmente era suonato su un flauto dolce questo brano. Lo sentirete perché è molto molto famoso. Addirittura fu usato, per esempio, dal John Rainborn Group nella loro versione di John Barleycorn, no? Famosissimo brano ripreso anche dai Traffic. Cosa molto strana, perché è un brano italiano che è stato trasportato, poi diventata una danza popolare inglese. È molto strana questa cosa. Infatti alla fine del disco io ho voluto rifare un altro brano inglese per farlo diventare italiano questa volta. Allora, continuiamo con le nostre bellissime considerazioni sull'argomento, però ci meritiamo un po' di pausa musicale per mettere ancora mani all'interno e orecchie soprattutto all'interno del mondo musicale di Alessandro Monti. Quindi adesso ci ascoltiamo Fine dell'infanzia. Thank you. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ancora buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato, questa è Blu Radio Veneto, siete all'interno di Blu Time Live, io sono assieme a Vannuccio Zanella e insieme a Vannuccio stiamo parlando con Alessandro Monti che è venuto a trovarci per parlarci del suo lavoro. Prima volevo ricordare ai nostri ascoltatori che la nostra radio non è ascoltabile solo attraverso le classiche frequenze FM, ma si ascolta anche tramite lo streaming audio presente sul nostro sito internet, quindi bluradioveneto.it. Entrate nella pagina riservata alla notizia dell'evento di questa sera, quindi l'evento con Alessandro Monti e il suo Unfolk, questo progetto di cui stiamo parlando, cliccare diretta audio e quindi siete direttamente con noi. Allora abbiamo ascoltato questo Fine dell'infanzia, un brano con un'atmosfera rarefatta, cosmica, in continua crescita, che però trova subito un disequilibrio, un rumore strano, un effetto noise che si appropria di questa musica estesa in principio. Sì, è un brano formato da tre pezzi in realtà completamente diversi che però alla fine stavano bene insieme. L'ho sovrainciso tutto da solo in studio, è stato molto divertente farlo. E credo che sia molto importante questa coda di rumore che sembra proprio... coprire tutto quello che c'è stato prima. Sì, sembra invadere un'atmosfera che si era venuto a creare quasi come un'invasione marziana, diciamo così. Sì, e comunque si sente bene l'influenza dei cosmici qui. Assolutamente infatti, sì. Infatti Alessandro sottolineava il fatto come quest'ultima parte sia proprio chiamata Oscura Profezia. In effetti sembra un temporale che sta arrivando, no? Quindi che in qualche maniera tende a coprire anche quella parte di luce che in qualche maniera si poteva avere fino a qualche minuto prima. È interessante l'utilizzo del rumore, non è una cosa semplice, anche perché pochi, secondo me, hanno saputo poi usarlo bene nelle loro composizioni, eccetera. Quindi senza andare dalle forse esagerazioni di un Stockhausen o delle composizioni per martello e incudine di Marinetti, che forse non è il caso di ricordare, però Però devo dire che ho conosciuto Stockhausen, è stata forse l'unica persona che ho chiamato maestro nella mia vita, perché quando ero ragazzo ho cominciato ad ascoltare queste cose, mi hanno aperto praticamente un mondo verso una dimensione che proprio era assolutamente nuova. Ho cominciato a documentarmi, a prendere un sacco di libri, poi è successo che l'ho conosciuto veramente durante un concerto a Venezia ed è stata una cosa molto bella. Mi dispiace molto che sia mancato così prematuramente, però è riuscito a fare un quartetto d'archi in elicottero, quindi è una cosa. Sai, la genialità, secondo me la genialità della musica non è solamente fare delle belle composizioni e rappresentarle. In fin dei conti anche Cage ci insegnava che nel suo brano 3:33, insomma, esce un pianista, resta seduto e la musica sono praticamente i rumori del fondo della sala da concerto, quindi è il pubblico stesso che la crea. Sì, ricordiamo un silenzio al limite della filosofia, insomma. Certo, ricordiamo che Cage cercava di insegnare anche quel tipo di musica a Mike Buongiorno, che non l'aveva proprio apprezzata poi tanto in quel periodo, e guarda caso non osi immaginare perché. Comunque non è. Se non ricordo male si presentava come esperto di funghi. Sì certo, era in quel Lascia Raddoppio o in Rischia Tutto prima edizione, comunque è passato un bel po' di tempo, sì, da quel momento. No, ma è famosissima sta storia, perché sì. Credo che addirittura Mike Buongiorno gli abbia detto una cosa tipo: lasci stare quella sua musica, resti qui con noi. Sì. Resti con noi, riporti in America la sua musica, diceva, no? In un certo senso. Cosa vuoi? Nessuno è profeta in patria, sì, no? È giustissimo. In questo caso tanto più. Però diciamo c'è tempo all'interno della propria, diciamo, esistenza musicale, di ascolti, di fare breccia su vari argomenti. Ognuno è maturo al momento giusto per certe musiche. Sai, qua effettivamente ti do perfettamente ragione. Questo secondo me introduce anche un altro aspetto del discorso che volevamo fare con Alessandro Monti, che era quello, visto che lui parla giustamente di contaminazioni, di mondi diversi, di culture diverse musicali. In fin dei conti la rete, internet, il web ci ha permesso di essere dovunque in questo momento. Allora, anche con Alessandro, chiediamogli un attimino, Flavio, se il web ha più punti positivi o più punti negativi per la musica, oppure quali due aspetti può avere. Il web è intervenuto per aiutare o per danneggiare in maniera assolutamente, come dire, senza ritorno la musica? Alessandro, domanda difficilissima. Domanda veramente complessa. Difficile, però sì. Si può provare a bozzare una risposta. E allora, devo dire che questo lavoro è stato molto aiutato dalla rete, quindi non posso assolutamente parlare o sparare a zero sulla rete, perché è stata importante sia a livello di contatti, sia a livello di distribuzioni, che di recensioni, di passaparola, eccetera eccetera. Quindi quello che purtroppo vedo di negativo nella rete è questo problema, purtroppo, di frammentare di troppo le cose, di renderle un mare di confusione incredibile, che per me comincia a diventare un problema. Io ho sempre amato il disco, proprio perché magari compri poche cose, ma quelle cose le vivi, te le ascolti. C'è questo famoso rituale di cui parlavamo prima, dell'ascoltare il disco, addirittura il vinile. Noi proveniamo da questa generazione irrimediabilmente persa ormai. Sì, poi ci sarà modo anche di parlare più approfonditamente del vinile, sì, del PVC. Sì. Però alla fine la rete, penso che, sapendola usare, possa dare dei contatti molto interessanti. Ad esempio, Vannuccio è stato un contatto che io ho avuto in rete, lui ha avuto me, e quindi è abbastanza curiosa questa cosa. Ci sono dei mezzi che, sapendoli usare, possono essere estremamente utili. Però ci sono anche molti aspetti negativi. Il famoso free download, il famoso problema dei siti che mettevano praticamente a disposizione di tutti gratuitamente anche materiale ufficiale, queste cose qua sono state problematiche. Io ho trovato alcuni miei dischi gratis su un sito, ho dovuto chiedere di toglierli, perché il problema è che dietro c'è del lavoro e occorre rispettarlo, e questo credo che sia un problema di educazione molto grosso che dovremo affrontare prima o poi. E mi sembra che siamo diciamo in una fase più positiva con la chiusura di certi siti che sono stati estremamente dannosi, però anche su YouTube attualmente tu puoi ascoltarti interi album. Certo. No, ma in effetti non si tratta neanche, perché problema, secondo me, sia Alessandro, sia Flavio, sia Nino, poi perché Nino è un distributore, per cui tanto più sente anche lui questo problema. Il problema non è squisitamente economico, è il riconoscimento che tu dai all'artista per aver fatto un lavoro che lui ha fatto in qualche modo. Certo. Quindi voglio dire, magari, sai, come si usa dire, se tu devi spendere anche semplicemente un euro per qualcosa, ti responsabilizza su quello che acquisti, almeno gli dai un valore, perché ti è costato qualcosa. Certo. il avere tutto gratis ti permette anche di, come lo prendi in mano, buttarlo nel cestino. E infatti succedeva proprio così, cioè gente che aveva, non so, il desktop pieno di piccoli file pieni di cose dentro che non sapevano neanche cosa fossero e che credo che non abbiano neanche mai ascoltato, se non un pezzo di qua, un pezzo di là, eccetera. Quindi è vero, è verissimo quello che diceva Annuccio, secondo me il lavoro è la prima cosa. E ho detto prima una cosa che secondo me è fondamentale e che credo molto nel rapporto di produzione e fruizione del lavoro, e quindi c'è un interscambio. Ovviamente dal punto di vista economico c'è per forza, perché c'è un costo di produzione ed è ovvio che il disco dovrebbe essere messo in vendita. Il free download può essere una buona tattica, secondo me, per far conoscere almeno delle cose e quindi invogliare magari le persone con alcuni pezzi di qua di là nei siti, ma intere opere in free download secondo me non ha assolutamente senso. A questo punto suoniamo dal vivo, non facciamo più dischi, finito il discorso. Sì, certo, anche... anche perché molti gruppi dicevano appunto: noi suoniamo dal vivo, il disco lo vendiamo dopo ai nostri concerti, e quindi si affidano alla loro rete diretta di ascoltatori primi, quindi gli ascoltatori del loro live, che poi fanno proprio anche, diciamo, la dimensione da CD, e questo forse è un'arma vincente. Questo, sai, questo lo vedo anch'io da produttore. Il discorso è molto interessante, Flavio. Il problema è che non riesci facilmente ad andare a suonare a Tokyo, per esempio, mentre un artista molto probabilmente avrebbe piacere di avere anche suo disco in vendita sulla Kinz, insomma. Certo. Però forse a Tokyo hanno più un orecchio attento, mi sento di dire. Siamo noi forse come italiani a non avere proprio un approfondimento di cultura musicale. Io non voglio essere polemico, ma ho paura che sia difficile anche suonare un po' proprio fuori di casa ultimamente. Ma forse è più complicato, più complicato. Allora, Flavio, io direi andiamo... ascoltiamo un altro pezzo. Sì, anche perché giustamente, come si diceva, anche Alessandro ha arricchito questo disco che aveva presentato nel 2006, proprio proponendo alcuni inediti di quel periodo che non erano presenti nella versione originale. È stato così. Io ho appena uscito questo primo disco, ho iniziato a registrarne un secondo che doveva chiamarsi Unfolk 2. In realtà la cosa è stata sospesa perché poi il progetto è diventato il Venetian Book of the Dead, cioè il libro veneziano dei morti, di cui parleremo dopo, che era ispirato al petrolchimico. Quindi alcuni brani che erano stati registrati per quel disco ho deciso che stavano bene dal punto di vista musicale, alla fine li abbiamo inseriti. Uno di questi è Stains Morris, che è una danza inglese. E allora ce l'ascoltiamo, Stains Morris. Thank you. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Ancora con Blu Radio Veneto in questo martedì 18 giugno 2013 abbiamo con noi Alessandro Monti, stiamo piacevolmente ascoltando il suo lavoro che si intitola Unfolk e abbiamo ascoltato questa traccia, si intitola Stan Morris, legata un po' a quella che era la musica tradizionale, quella che Alessandro citava prima come una musica presa ad orecchio, no? Per cui senza iscrizione o trascrizione di note, ma così, come viene passata anche quella che è la classica musica tradizionale. In questo caso l'abbiamo ascoltata in versione strumentale, mentre sappiamo che Stan Morris ha anche un testo proprio di composizione. Esatto, sì, sì, ma è un po', diciamo, uno dei rarissimi casi del disco in cui veramente c'è del folk dentro, perché è proprio una tradizione orale. Io l'ho ascoltata dei dischi, ovviamente non essendo inglese, però mi piaceva l'idea che la rotta fosse un pezzo italiano trasferito in Inghilterra e che questo fosse un pezzo inglese ritrasferito in Italia, per cui... Ma sai che una volta, e non so, la storia di un compositore appunto del XVI secolo come John Dowland ce la ricorda bene, erano persone che viaggiavano a quell'epoca in tutta Europa, veramente venivano richieste le loro hits musicali del momento, come noi faremmo adesso per un successo internazionale. Sì, assolutamente, infatti è una di quelle caratteristiche spesso anche nella musica classica, anche rinascimentale, ma anche nella classica seguente, nel barocco, moltissimi musicisti viaggiavano e senti degli stilemi tipici in tutte le nazioni che però sono molto simili. Beh, sicuramente la base di fondo era quella e, come sempre, è il gusto di un'epoca, sì. No? E forse siamo noi che siamo stati molto veloci, nel giro di 50 sì. anni ci siamo veramente bruciati tantissimi stili, però insomma anche l'evoluzione vuole anche questo. Flavio, cosa dici? Volevo solo capire, perdonami Vannuccio, una velocissima curiosità, perché quello che fa sempre colpo sugli album di Alessandro Monti sono proprio le copertine. E quindi, a proposito di copertina, visto che adesso chiudiamo nell'argomentazione di Unfolk, parliamo un attimino di quella che è una copertina surrealista, la definirei io. È stata una cosa, mi fa molto piacere questa domanda, io non avevo considerato questa cosa perché pensavo solo alla musica, ma la grafica è importante quanto la musica. È stata una cosa molto strana, era appena mancata mia madre, mio padre purtroppo era già mancato precedentemente, io stavo svuotando la casa, stavo finendo questo disco e da una cartellina è venuta fuori questa stampa di Alberto Martini, che è un pittore precursore del surrealismo, e è venuto fuori questo bellissimo quadro degli anni 20 e mi sembrava che quasi mio padre mi avesse dato questa immagine da un'altra dimensione, ed era perfettamente l'immagine della musica. C'è un musicista mascherato che, guardando bene, è la morte, e c'è una chitarra, suona, c'è un qualcosa che si sviluppa, una fiamma che si sviluppa. Sì, è bellissima anche l'immagine del violinista, del violoncello che appare su tutto il disco. Insomma, è stranamente in sintonia con tutto il lavoro. La morte era effettivamente in quel momento anche nella mia vita, perché avevo appena avuto la mancanza di mia madre, eccetera, per cui è stata assolutamente perfetta. In realtà poi per avere questo quadro è stato un po' un problema, perché io avevo questa stampa e insomma sono arrivato al museo, alla Pinacoteca Alberto Martini di Oderzo, dove mi hanno indirizzato verso chi aveva i diritti e sono stati gentilissimi, contentissimi. Una persona che adesso detiene i diritti di Alberto Martini mi ha concesso tranquillamente di fare bene. Uso ed è stato molto contento del risultato. È un'ultimissima cosa, è dall'inizio che voglio fargli questa domanda, però adesso gliela faccio. Allora, in principio di tutto il percorso di Unfolk c'è la citazione legata a un personaggio che ha fatto un lavoro che poi è stato perduto. Dirla in latino sarebbe Heraclium Hypothesis. Sì, sì, sì. Chi è questo personaggio molto medievale, oserei dire? Sì, nella versione nuova deluxe è in inglese, perché il lavoro era stato così concepito per essere anche distribuito in Inghilterra, vista la distribuzione inglese che riuscivamo ad avere con Kevin Newick. Adesso le prime copie italiane sono un po' difficili da trovare, comunque la prima versione è in italiano. È un po' diciamo che un mito di questo personaggio che in qualche modo aveva fatto partire il lavoro, come se fossero state ritrovate delle partiture sepolte dal tempo e questo personaggio aveva comunque anche avuto modo di registrarle inventando una sorta di magnetofono ante litteram con la cera riscaldata, tutta una serie di cose. Bene. Insomma, una storia che potrebbe anche essere vera, io non ve lo svelo comunque. le favole sono belle anche per questo e soprattutto chi poi le sviluppa musicalmente. Assolutamente no? Sì, assolutamente sì. Vannuccio, allora chiudiamo diciamo la prima parte risalvata al capitolo di Unfolk e passiamo a quella che è la seconda parte, sempre con Alessandro Monti. Scusami. Esatto. Sì. No. Che ha un trait d'union con quello che abbiamo detto prima. Sì. Una è quello che avevi sottolineato tu, la copertina bellissima anche per il libro veneziano dei morti di tibetana memoria in questo caso, e soprattutto la profondità con cui si tratta un argomento che veramente è stato sentito per anni in quel di Mestre di Venezia e dei dintorni. Ma lasciamoci Alessandro magari a parlarcene di questo lavoro. Sì, diciamo che stranamente le due copertine hanno un'analogia in questa figura. C'è la morte presente sul primo disco, ci sono le morti di tutti questi scheletri nel secondo disco. In realtà è una cosa abbastanza casuale, perché poi il lavoro è sorto da tutt'altra direzione. E diciamo che volevo fare da anni una specie di tributo alla mia città, perché non solo perché avevo perso mio padre, come tante altre persone, a causa di tumori derivati da tutti i problemi chimici che ci sono stati ambientali nella zona di Mestre, ma poi perché poi avevo letto una serie di libri molto belli, tra cui Petrol Chimico di Gianfranco Bettin, che mi ha colpito particolarmente, in cui intervistava tutte le famiglie dei vari operai, eccetera. Insomma, praticamente questa è una sorta di peccato originale che noi ci portiamo dietro a Mestre. E conosco poche famiglie che non abbiano avuto casi di cancro in casa, ed è una tragedia un po' tutto quello che è stato fatto ai danni della gente, ai danni dell'ambiente, dell'acqua, di tutto. E volevo fare qualcosa su Venezia, ma volevo che questo qualcosa fosse anche qualcosa di politico e che quindi avesse un messaggio piuttosto forte, ed è venuto fuori così. Avevo il libro veneziano, il libro tibetano dei morti, come diceva Vannuccio, ce l'avevo lì in libreria. Sì. E pensavo a Petro il Chimico di Bettin, e questi due libri si sono fusi ed è diventato il libro veneziano dei morti. È stata una cosa casuale. Tra altre cose, Bettin aveva anche ascoltato il tuo disco molto attentamente e lo ha definito proprio in due parole: un disco molto importante. Sì, è stato così. Molto gentile, è venuto anche alla presentazione che mi ha fatto da Feltrinelli quando è uscito, e mi ha fatto molto piacere, perché poi Gianfranco è una persona che ascolta anche molta musica, quindi era anche abbastanza in sintonia e conosceva i Joy Division. Perché Kevin Newick, che è il cantante che poi vabbè, ne parleremo dopo, insomma era stato cantante, doveva essere il sostituto di Ian Curtis, tra parentesi. Quindi insomma Gianfranco sicuramente si ricorda bene, devo ancora dargli il remaster, spero di vederlo presto. Allora introduco io un attimino il disco, se vuoi, un po' tecnicamente, proprio come cominciava a parlarne Alessandro, e parlando proprio anche di un personaggio molto particolare come Kevin Newick. Kevin Newick comincia la sua carriera appunto come cantante per la Factory, questa ovviamente fondamentale etichetta inglese che aveva lanciato i Joy Division di Ian Curtis, e che dopo il suicidio dello stesso doveva in qualche maniera portare avanti il discorso. Fece questo, effettivamente solo un singolo uscì con già i nuovi Joy Division, si chiamava New Order di Peter Hook. Però insomma sembra che le cose non siano andate molto bene. Ma secondo Kevin lui ha fatto una session di una giornata, hanno registrato due pezzi, poi hanno tratto questo pezzo, questo singolo. Però in realtà forse loro avevano, quando gliel'ho chiesto, lui mi ha raccontato un po' la storia, lui diceva che secondo loro la voce di Curtis era talmente particolare che identificava molto il lavoro, e forse in quel momento non se la sentivano di fare una sostituzione, perché la voce di Kevin probabilmente è ancora più bella dal punto di vista timbrico, ma è un'altra cosa, e quindi hanno preferito andare avanti loro cambiando addirittura nome. e cambiando anche addirittura molto genere, effettivamente. Penso anche abbia un po' influito la personalità di Peter Hook, perché non è, come si dice in dialetto, farina la farostie, da quello che ho sentito. Sì, sicuramente, anche perché lui è un amante della dance, quindi in qualche modo fa anche di giochi, quindi vabbè, insomma, Peter è un grande bassista, ma sicuramente sa anche fare i suoi calcoli. Probabilmente in quel momento le tendenze stavano andando verso un certo tipo di musica dance, però tra virgolette intelligente, e quindi si sono buttati in quel settore lì e hanno fatto dei dischi a mio parere interessanti, ma poi alla fine sono scaduti un po' in cose un po' troppo commerciali. Ma d'altra parte era un gruppo di professionisti che a quel punto là doveva sopravvivere in qualche modo. Ma io penso che, io sono un amante sia dei Joy Division che dei New Order, per cui i primi New Order sono molto interessanti, bravissimi in entrambi i casi. Poi sì. Il buon finisco in un attimo. Prego, Vanuccio. Il buon Kevin approda la Sherry Red, altra stupenda etichetta inglese, effettivamente. E però anche qua trova una certa difficoltà nell'esprimersi. Sì, è un po' anche a causa del suo carattere, perché è una persona un po' particolare. Fa un album bellissimo che si chiama Such Hunger of Love, che è un album molto difficile da trovare adesso, ma che comunque è stato ristampato su un CD della Cherry Red, che contiene tutto quello che c'è di Kevin Newick in giro fino a quel punto. E poi sta parecchi anni in silenzio per motivi personali, familiari, fa altri lavori, eccetera. E io l'ho scoperto per caso in rete tramite MySpace, il vecchio MySpace. E lui rispondeva a tutte i quesiti, io gli ho fatto i miei complimenti perché ricordavo la sua voce come una delle più belle voci di quegli anni, e purtroppo è stata documentata molto poco. Lui è stato molto entusiasta di tutto quello che gli ho detto, insomma alla fine ci siamo scambiati gli indirizzi, gli ho mandato il disco, mi ha risposto che era felicissimo e che avrebbe contribuito sicuramente a qualcosa. Io avevo un CD con delle basi di quello che sarebbe diventato poi il libro Veneziano dei Morti e gliel'ho mandato. Sono passate delle settimane, un giorno mi arrivano 11 testi via email. Cioè, 11 non uno per giorno, 11 testi uno dietro l'altro. E sono rimasto sconvolto perché i testi erano straordinari, perché io gli avevo accennato su cosa volevo basare il lavoro, ma pensavo che mi facesse uno o due pezzi al massimo, cioè facesse un piccolo contributo. Invece ha fatto 11 pezzi ha reso il disco un concept album, e qui dal post-punk new wave si passa al progressive, perché in qualche modo c'è una storia in questo disco. È molto interessante che Kevin Newick, che è ritenuto un cantante di post-punk, abbia fatto questo, perché infatti parlando lui ha detto: quando ho scritto questa cosa avevo The Lamb Lies Down on Broadway in testa. Di Genesis, ovviamente. Ebbene. Allora, citazione preziosa anche quella dei Genesis in questa serata. Direi iniziamo con l'ascolto del libro Veneziano dei Morti, ascoltando la traccia numero 4, che si intitola Bedroom Discotheque, qui a Blu Radio Veneto. Discotheque dreamers, 7, 10, 12 dreamers. Sweet dancing dreamers, bedroom discotheque dreamers. Turning turntable, turning turn, 45, 33 and a third. Yearn. Needle in the groove, feel the plastic beat, pour that molten vinyl over you and me. yearn. Spin, spin, go round and learn. Make us dance forever. Spin, spin, go round and learn. And we will dance forever. Spin, spin, go round and learn. Make us dance forever. Spin, spin, go round and learn. Yearn. Hot wax memories, jazz, blues and soul, old time folk and country, good old rock and roll. Hot wax memories, jazz, blues and soul, old time folk and country, good old rock and roll. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Siamo entrati a pieno titolo nell'altro mondo di Alessandro Monti, in questo libro veneziano dei morti che all'inglese suona come The Venetian Book of Dead, in collaborazione con Kevin Ewick, di cui stiamo parlando, e con questo primo quadro della situazione, questa bedroom discotheque, come diceva Alessandro fuori dalla diretta, la cameretta che ognuno aveva quando era giovane, forse ancora adesso qualcuno ce l'ha, con tutto un muro di dischi dietro, quindi il mondo del vinile visto dal punto di vista di pubblicazioni, diciamo discografiche, 45 giri, 33 giri, dimenticando, come diceva Alessandro, quello che c'era dietro il vinile, questo amatissimo strumento. Esatto. Di ascolto. Sì, io avevo la libreria che si era piegata perché non ci stavano per più i libri, però, e dormivo sotto, avevo sempre paura che cadesse tutto. No, comunque sì, l'idea di base, di partenza, era proprio il vinile come gioia dell'ascolto e come la tragedia che stavano vivendo gli operai in quel periodo lì, che morivano, e grazie a per problemi ovviamente legati alla scarsa protezione, a moltissimi problemi che venivano tenuti segreti, e quindi purtroppo è un discorso molto lungo. Comunque ci sono tre libri che vanno assolutamente letti. Uno è di Gabriele Bortolozzo, che è il primo operaio che ha tirato fuori questo problema. Sì, e poi è mancato sì. Per un incidente stradale. Sì, una cosa assurda, infatti, un po' come Yuri Gagarin, che ha fatto e poi è morto in aereo. Sì, sì, sì. Sì, purtroppo sono quelle cose strane. Comunque, Bortolozzo è stato il primo a tirare fuori questo argomento e vedeva i suoi compagni che si ammalavano tutti dello stesso tipo di tumore, che era un tumore particolare, e si è preoccupato di questa cosa e ha cominciato ad andare a fondo. E ha fatto un libro molto bello, che è un libro abbastanza più politico che di denuncia, però insomma interessante. Poi c'è il libro di Bettini, di Ciò Petrol Chimico, ne ha fatti due, anche Petrol Killer è bello. E il libro di Casson, che racconta del processo, che si chiama, credo, La fabbrica dei veleni. Comunque io sono partito da quello di Bettin e credo che l'opera sia stata poi meravigliosamente plasmata da Kevin, e in qualche modo sono tutte le considerazioni di questo operaio che passa attraverso tutta la sofferenza di quello che è il lavoro, i problemi familiari, fino alla fine, insomma. Ecco, io volevo invece tornare un attimino a quello che diceva prima Alessandro, che era il fatto di come sia in qualche maniera semplice, sempre grazie alla rete, avere delle collaborazioni molto strette con anche dei grandi personaggi che in teoria nemmeno ci conoscono, no? E volevo citare per esempio il nostro caso come etichetta discografica di aver contattato Sonia Cristina, cantante dei Corveder, o se volete anche moglie del batterista dei Police, eccetera. Ecco, che abbiamo contattato veramente per email per farla partecipare a un disco da noi prodotto, che è un disco di Fabio Liberatori, che si intitola The Asimov Assembly. Cosa succede? In questi casi è bellissimo notare come ci sia stata subito comunque un apprezzamento ad una collaborazione, a un lavoro da fare. Dopodiché la professionalità di queste persone, non voglio ovviamente togliere nulla agli italiani, ce ne sono di bravissimi, ma queste persone che in qualche maniera sentono la musica, sentono che il loro lavoro è la musica, non è uno status, è una professione, e come tale veramente la fanno benissimo. Facevo però un'altra domanda dopo questa digressione sugli artisti stranieri. Volevo fare un'altra domanda ad Alessandro, ed era quella: come mai, a parte giustamente i testi sono stati scritti da Kevin, comunque aver lasciato il lavoro in inglese? Sì, è uno dei problemi che mi sono posto anch'io quando ci siamo ritrovati di fronte a dei testi meravigliosi scritti in una lingua diversa da quella che era quella di partenza, perché in realtà quella locale era il nostro italiano. E, ho pensato che alla fine il lavoro di Kevin fosse talmente bello e brillante che comunque sarebbe stato assurdo senza la sua voce o facendolo interpretare in maniera diversa. E ho pensato che quell'inglese dava un senso universale a quello che poteva essere una realtà locale, e mi è piaciuta molto l'idea che questo disco diventasse un qualcosa che andava al di là di quello che era il semplice racconto del petrolchimico. Beh, sai, il problema penso sia magari anche più internazionale, certo, che non solamente di Venezia, certo, in altri luoghi, insomma. Anzi, a proposito di questo, hai detto una cosa giustissima che mi è capitata e che penso poche persone sappiano. Attraverso MySpace, una ragazza che ha sentito questo lavoro attraverso appunto i vari iTunes, eccetera, poi mi ha scritto e mi aveva detto: è molto bello il lavoro, ma tu sai che esiste un film che si chiama Blue Vinyl? E io ho detto: no, non lo conosco questo film. E perché devi assolutamente vederlo, c'è questa realtà americana, però a un certo punto i registi si trasferiscono a Venezia, effettivamente è così, io sono riuscito a trovarne una copia scaricata non so dove, in realtà questo è un film che non si è visto dalle nostre parti, temo che sia stato anche boicottato, e praticamente parte dalla realtà americana delle fabbriche, ma anche delle case fatte in vinile, quelle case che in America si vedono fatte a listine che sembrano, sì, legno, per un certo periodo sono diventate in vinile e hanno creato dei seri problemi alle persone all'interno, perché hanno dato dei problemi proprio di tossicità, no? E dal vinile delle zone di New Orleans, mi sembra fosse in Louisiana, si passa a un certo punto, i registi vengono a Venezia e arrivano al processo del petrolchimico. Quindi è molto interessante questa cosa, perché effettivamente la realtà era veramente comune a moltissimi posti. Sì, sì, a partire dal famoso morbo di Minamata in Giappone, del mercurio, eccetera. Insomma, quindi queste situazioni di inquinamento che veramente sono deleterie per le persone, anche se da un certo punto di vista economicamente possono fare la fortuna di una ragione, dopo in effetti diventano molto più deleterie di quello che sono. Giustamente, anche un'altra cosa, io ho apprezzato del lavoro di Alessandro e di Kevin in questo caso, il fatto che non si sia sentita per esempio la necessità magari di far cantare da uno straniero in italiano, come neppure di far cantare da un italiano in inglese, cosa che purtroppo capita un po' troppo spesso e anche in brutto modo, se devo essere, sì, onesto. Io avrei voluto che il lavoro fosse in italiano, francamente la maggior parte dei pezzi sono in uno stile che definirei rock, quindi tra il rock, il folk, l'elettronica, ma comunque la metrica della lingua italiana si adatta molto difficilmente a certi tipi di scansione, no? Per cui credo che alla fine l'inglese sia stata la soluzione più giusta. A lui è venuto spontaneamente, l'ha fatto così, e credo che quando le cose nascono spontanee di solito sono le cose migliori. Beh, anche come sentiremo dal prossimo, certo, brano, vero? Sentiremo, Flavio? Sì, sicuramente il prossimo brano merita da dire che all'interno del disco di Alessandro Monti c'è anche un libricino che permette di seguire i testi per chi magari non ci arriva rapidamente. Tradotti, sono con traduzione a fronte, questo benissimo, è importante. Quindi assolutamente sì. A proposito di traduzione a fronte, adesso ci ascoltiamo un'edizione limitata di uno, perlomeno così lo leggo dalla parte destra, quindi dalla parte italiana. E questa è una grande invenzione, sì, di Kevin, che ha detto sì, l'edizione limitata è il disco, ma è anche l'operaio, che è una vita che non sarà mai, che sarà sempre diversa. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo qui all'interno della programmazione musicale di Blu Radio Veneto. This is where your fathers toiled and died. Others told you lullaby lies, but then you found life had another side, and that was when you truly learned to cry. Born to be the person that you are, part of them yet also set apart, a limited edition of one, full of joy and grief and pain and fun. Little boy, you grew from child to man, and then you saw the stain upon your land. Girl, the woman in you knew no lie could ever keep you from the truth. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo ascoltato un altro pezzo da The Venetian Book of Dead. Alessandro Monti è qui con noi per spiegarci, per addentrarsi in queste atmosfere veramente gradevoli, in questi testi davvero profondi. In questo caso abbiamo ascoltato A Limited Edition of One, con un rock, diciamo, in una versione molto molto cruda, ma nello stesso tempo che entra bene. È un rock fatto con il mandolino, quindi non c'è, pensa un po' che stranezza. Quindi quell'atmosfera elettrica somigliava a una chitarra elettrica da lontano, diciamo. È un mandolino elettrico con un... sì, ha usato un suono dell'amplificatore piuttosto riverberato e sembra quasi una chitarra sulle note alte, però è un mandolino. E c'è una chitarra acustica molto leggera dietro, insomma. Però secondo me il pezzo rock è dato da basso e batteria, che sono effettivamente due. Quindi, come si diceva prima fuori dalla diretta, tu che sei un bassista, quindi sei la parte ritmica, fondamento di quella che è la musica, passare a questo strumento che è il mandolino, quindi una cosa più non d'accompagnamento, ma sempre una cosa solista, diciamo, in questo caso. Sì, è una bella domanda. In realtà c'è una risposta abbastanza atipica, come è atipico tutto il nostro lavoro. Io ho cominciato suonando la chitarra, il basso ha le prime quattro corde della chitarra, tutti suonavano la chitarra meglio di me e mi hanno detto: perché non provi il basso? E ho provato il basso e mi sono trovato benissimo col basso. E quindi ho sempre suonato corde e probabilmente non suono il basso in maniera normale, lo suono arpeggiato, cerco di fare delle parti che sono più armoniche che ritmiche, quindi è venuto un po' naturale il discorso delle corde. E il mandolino è semplice perché ne ha solo quattro doppie, quindi non è tanto difficile, anche se non hai una mano estremamente grande, insomma. È un manichetto piccolo. Sì, sì, sì. Comunque l'interessante è quello che poi alla fin fine noi abbiamo ascoltato. Il disco anche qua è estremamente particolare, le diverse atmosfere sono molto variegate, anche se in certi tratti devo dire mi ricordano molto le atmosfere che usava Sylvian nei lavori con Fripp, e mi ricorda anche molto quella versione estremamente semplice del rock elettronico inglese che abbiamo vissuto negli anni 90, insomma. Sì, credo che forse la bellezza, insomma, di questo lavoro, quando l'ho riascoltato alla fine mi sono reso conto che poteva essere indefinibile nel senso di stile, perché effettivamente è successo così, tante recensioni hanno trovato dentro del progressivo, perché c'è l'opera, quindi il concept, e un certo tipo di complessità anche strumentale certe volte. Altri hanno trovato gli agganci con la new wave, perché un po' per certe sonorità del basso che uso io, un po' per la voce di Kevin, e c'è il folk dietro che comunque continua, anche se è un folk decisamente molto distorto, come nell'introduzione in cui il mandolino viene riprocessato dal computer. Però ci sono tante cose differenti, c'è il noise, c'è l'elettronica, poi che l'elettronica che ti rimanda probabilmente a quello che dicevi tu quel periodo lì. E quindi credo che alla fine la cosa bella è che può essere una forza, ma però può essere anche un limite, quella di essere veramente molto vario e strano. Ma sai, Alessandro, come si diceva prima, la varietà innanzitutto permette di avere un'apertura mentale maggiore, sì, secondo me. Ma sai, questione del percorso che abbiamo fatto 30 anni di musica e queste cose prima o poi ritornano nella tua mente e le butti fuori in qualche modo. Ma sai, riusciamo però anche ad ascoltarle nel modo giusto. Ci sono cinquantenni come noi che, se ti allontani dallo stilema che loro hanno amato, diventa assolutamente inascoltabile. Secondo me forse magari un po' più di apertura mentale non sarebbe male. Infatti questo è un grosso problema, perché molti della nostra generazione sono rimasti per esempio a certi nomi, ed è per questo che stanno spopolando le cover band, perché sembra che proprio non esista altro che quel periodo lì, che è impossibile da ricreare, che secondo me è assurdo, perché bisognerebbe avere un po' più di coraggio e proporre qualcosa di originale, perché secondo me uno dei problemi grossi della musica oggi è anche il fatto che esce pochissimo di originale nei locali, e spesso i gestori stessi non hanno il coraggio di tirar fuori qualcosa. I gestori stessi, perché fanno sempre i conti ogni giorno con il budget d'entrata che hanno, perché poi da quello che mettono in cartellone fuori, voglio dire, devono recuperare comunque monetariamente parlando, no? Quindi devono monetizzare poi alla fine. Sì, ma certe volte rischiare qualcosa, io sono sicuro che la gente vuole ascoltare anche qualcosa di differente. Però ad esempio noi abbiamo un problema d'estate, c'è questo village che fanno ogni anno e sembra che richiamino sempre gli stessi nomi, quando ci potrebbero essere tantissime cose differenti, anche cose diverse. Quest'anno c'è un'idea diversa perché c'è un palco piccolino e un palco grande in cui magari suonano quelli un po' più famosi, però piccolino magari suonano cose un po' più di nicchia, eccetera. C'è un gruppo di jazz che fanno cose interessanti. Potrebbe essere l'inizio di una nuova era, ma io sono un po' dubbioso, perché mi sembra che le gestioni di questi eventi siano sempre un po'... Ma forse dovrebbero essere un attimo più consapevoli del fatto che la gente vuole anche ascoltare qualcosa e non soltanto bersi una birra, insomma. Certo, assolutamente sì. Sai, qui è anche vero che la legislazione italiana non è che venga proprio incontro a... Sì, è anche un altro problema. Alle piccole gestioni, cioè, da poco è stata istituita in Inghilterra una legge che prevede che sotto un numero di posti, 200 mi sembra, adesso non ricordo bene come sia, effettivamente è tutto libero, quindi voglio dire, non hai bisogno di permessi, non hai bisogno di sì. CI, non hai bisogno di niente, insomma, oppure è una cosa forfettaria. Invece qua dopo le 9 persone comincia a entrare ad essere considerato pubblico, e quindi con una gestione. Ne basta anche 2, ecco, dopo sì, dipende, sì. Dipende, no, da chi è verissimo, trovi. È verissimo quello che dite, sì. Perché è un problema comunque grosso che si trova a gestire la persona che organizza, ma io trovo che comunque forse dietro ci sia anche un problema culturale, e quindi il fatto di proporre determinate cose oggi è molto più difficile di una volta c'era un'esplosione di creatività incredibile, oggi siamo in una situazione di, secondo me, di transizione verso un'epoca differente. Vabbè, speriamo che la transizione ci porti a qualcosa di meglio, perché onestamente la vedo veramente dura al momento attuale. Certo, e noi, Vannuccio, come saprai, come Blu Radio Veneto siamo un po' i pionieri, portiamo avanti sempre questa idea di musica alternativa e la facciamo ascoltare sempre con grande piacere. Assolutamente, guarda, io sono rimasto colpito fin dai primi tempi in cui abbiamo cominciato un po' a lavorare insieme, e ho visto poi come si è evoluta tutta la struttura della radio, e insomma devo dire non posso che ringraziare Blu Radio Veneto per tutte le possibilità che ha dato, oltre al sottoscritto anche a tantissimi gruppi, di avere comunque uno spazio, e uno spazio di qualità, tra l'altro, perché insomma non basta avere 10 minuti una citazione, ci vuole, no, certo, anche. Certo, infatti vi ringrazio molto, perché è stata un'occasione in più che ho avuto per parlare di questi lavori e di quelli che trasmetteremo anche più avanti, che sono appunto comunque collegati a questa etichetta. Beh, allora io direi, prima di ascoltare il prossimo brano, facciamo così, cominciamo già a introdurre questa strana etichetta, Alessandro. Io l'ho chiamata non etichetta prima, perché in realtà non è un marchio depositato, è soltanto un pretesto per pubblicare delle cose nostre, e quando uno fa un disco dice, ma cosa ci metto dietro? Ci metto qualcosina. Mi sono inventato un marchio che avevo preso da un libretto di istruzioni dei dischi, dei CD, dove c'era la manina, come usare il CD. L'ho girato, l'ho un po' sistemato, ed è venuto fuori Diplodisc, che è un buffissimo nome, perché molto vicino a un dinosauro, no? Un diplodoco. Bravissimo. Deriva da quello. Ah, vero. Perché siccome siamo un po' vecchi noi, sì, di una certa generazione, allora c'è un mio amico che si chiama Ptero, io mi chiamo Diplo, e allora sì, abbiamo fatto questa specie di... No, comunque si riferiva un po' a una frase che avevo sentito dire da Neil Young, che mi piaceva moltissimo, che era Dinosaurs in the Computer Age, e si vedeva lui con questo microfonino che faceva il dinosauro nell'era del computer. Non so se vi ricordate Trans, era un disco che aveva sconvolto tutti, ma che secondo me è un disco di culto molto interessante. Allora, è interessante una cosa, qua volevo ringraziare invece Nino Destra, che è una delle distribuzioni con la GT Music Distribution, che cura la distribuzione proprio dei lavori della Diplodisc, e in special modo quelli di Alessandro. E, infatti i lavori sono trovabili, oltre a giustamente al sito di Alessandro, che dopo lui vi dirà, anche sul sito della GT Music, che è www.gtmusic.it. Quindi se volete trovare qualche lavoro di questa splendida etichetta, ragazzi, insomma, basta che scrivete a questo indirizzo. Alessandro, vuoi dire il tuo indirizzo invece? No, io avevo un sito che non riuscivo assolutamente a seguire e che alla fine è decaduto ed era un folcam che si trovava fino a qualche tempo fa in rete. Adesso esiste solo un Facebook che seguo con un po' di difficoltà, ma che comunque è l'unico indirizzo Facebook Unfolk che si può trovare, quindi basta cercare allora, Unfolk. Allora ci arroghiamo noi il diritto di in qualche maniera. Sì, no, il problema è sul tuo disco. Sì, no, ma io sono contentissimo perché vedo che siete delle persone anche estremamente entusiaste, avete una passione che è la cosa più importante secondo me sulla musica. In realtà il problema della rete è anche la gestione. Io non sono un musicista professionista, faccio anche un altro lavoro e quindi le cose non sono sempre molto semplici da gestire e ci vorrebbe qualcuno che gestisse la parte informatica o la parte dei siti eccetera, non è sempre facile. E quindi ho deciso di fare solo un paio di cose e se uno scrive ovviamente il nome di dischi su Google ne succedono di tutti i colori perché sono in tutti i siti del mondo, però effettivamente l'aggancio qui in zona è molto importante e soprattutto se ci sono questi diciamo rapporti con l'estero di cui mi parlavi prima, no? Certo, e infatti GT Music insomma riesce anche a in qualche maniera a promuovere all'estero questi lavori che sono sicuramente di stampo internazionale. Bene Vannuccio, allora direi proseguiamo con l'ascolto di un altro brano all'interno di questo Divination Book of Dead. Questa volta ci ascoltiamo Cicatrice del Tempo, eccola qua. Thank you. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato anche questo pezzo dal libro veneziano dei morti, si tratta di Cicatrice del Tempo, che è un po' quello che è, diciamo, l'introduzione a quello che è il disco, questo concept album di cui stiamo parlando assieme al protagonista, quindi Alessandro Monti. Cicatrice del Tempo è un pezzo che introduce un po' il lavoro e che dà proprio la dimensione dell'uomo che viene poi praticamente schiacciato da quella che è la tecnologia. Ha partecipato Gigi Masin, che è un mio carissimo amico, con cui ho fatto due album. E molto interessante anche qui nel libro veneziano dei morti la marea di persone che sono state coinvolte, poi ognuno ha dato del suo e alla fine tutto è divenuto un lavoro di collettivo. E ripeto, ci tengo molto a dire che è un collettivo unfolk. Sì, scusami, prego, Annuncio. Prego, volevo dire che effettivamente nella parte finale del libricino c'è tutta una serie di segnalazioni di tutti i nomi e quindi ringraziamenti di tutti i protagonisti di questo lavoro, quindi invitiamo ad entrare in possesso, naturalmente sempre in rigorosa maniera legale, del disco per assaporare appieno e per vedere tutte le collaborazioni importanti. No, voglio dire che comunque il disco è anche in download, ma è in download legale su iTunes o su Amazon o su CD Baby, si può trovare se una persona preferisce quel formato in un modo o nell'altro, però secondo me la parte grafica è sempre importante, qui c'è anche il discorso dei testi, c'è anche una copertina particolare, una fustella che avevamo trovato ideata dal nostro amico, insomma penso che il disco alla fine vada preso fisicamente. Ce l'hanno insegnato in tanti, insomma, che la copertina ha un suo valore. Partiamo da Andy Warhol con le sue copertine, fino anche a un maestro come è stato lo Studio Convertino in Italia, insomma, quindi tantissime persone che lavorano ad un disco. Proprio per questo, tanto più è un lavoro collettivo, non solo per i musicisti, ma anche poi chi si occupa di vestire graficamente questo disco. E sempre con Alessandro invece volevo ritornare un attimino ai lavori della sua etichetta, perché l'etichetta, è vero, comincia con i lavori di Unfolk, però in effetti si sta anche in qualche modo espandendo. Sì, sta arrivando, è arrivata al numero 7, che è un traguardo quasi inimmaginabile, però. E i lavori che sono usciti poi sono comunque collegati al nostro lavoro. Prima c'è stato Quana Parker, di cui ascolteremo poi qualcosa, che è un gruppo in cui ho lavorato anch'io negli anni 80 e che è stato uno dei primissimi gruppi di neo prog italiano, perché credo che nell'82-83 ancora non se ne parlasse. E Riccardo Scivale è un mio carissimo amico ed è un musicista veramente molto colto, e oltre ad insegnare ha pubblicato molte cose in America e trascrive pezzi di ogni tipo, insomma lavora regolarmente per editori americani ed è molto bravo. È innamorato del prog e ovviamente ha salvato questi brani negli anni sotto forma di spartito e ha trovato oggi una formazione ideale per ricreare quei pezzi in modo molto fresco e con un suono molto attuale, secondo me. Allora, diciamo che la cosa principale che secondo me sottolinea il lavoro di Alessandro è proprio questo fatto di trovare sempre dei professionisti musicali. Dopo, voglio dire, se vogliamo, la base comune è gente che ha studiato la musica. Al giorno d'oggi, almeno dal mio punto di vista, è bella la capacità, è bello il talento, eccetera, ma secondo me la musica va ancora studiata. Sì, è vero, e in realtà molte delle persone, incluso sottoscritto, hanno cominciato a suonare senza sapere nulla della musica, ma semplicemente ascoltando i dischi e quindi cercando di tirar fuori i brani così ad orecchio. E a me, per esempio, l'idea di studiare è venuta a 50 anni, quindi voglio dire, meglio tardi che mai, insomma, però secondo me le basi musicali e le collaborazioni nostre sono sempre tra i professionisti e quelli che magari lo fanno per passione, ma c'è sempre questo interscambio. Anche perché da produttore devo dire questo: diventa difficile poi parlare con un musicista se non ne hai il linguaggio. non è semplice dire vorrei che tu mi utilizzassi una scala cromatica per terze, se non sei uno che ha studiato è un po' difficile, sì. Insomma, infatti la maggior parte dei lavori come quelli nostri, insomma, nascono proprio da un discorso quasi verbale oppure il fatto semplicemente di un grande orecchio per l'improvvisazione. Certamente aiuta il fatto di trascrivere o comunque di conoscere la musica, di sapere, di espandere il proprio linguaggio, ma ovviamente quando si suona rock ci vuole anche molto feeling e certe volte la musica è un qualcosa che forse è più spontanea che scritta, diciamo. Ah, assolutamente, sì, non, però diciamo siamo su due binari paralleli forse. Sì, ma sono paralleli, infatti credo che molto del lavoro nostro sia stato arricchito anche da queste presenze di questi grossi musicisti. Quana Parker invece sono un gruppo proprio di tutti professionisti, quasi tutti sono maestri nel loro settore, la cantante è una soprano che insegna, molto brava, con un talento straordinario, Riccardo lo stesso insegna musica, il chitarrista lo stesso insegna, per cui sono un gruppo veramente di super musicisti. Cioè, oltre a essere bravi, sono anche coscienti di quello che fanno, mettiamola così. Vuoi che proviamo a sentirli, facciamo, Flavio? Allora, dimmi qual è l'album, Iguana, vero? Iguana, sì, qua. Benissimo, allora datemi solo il tempo di estrarlo dalla, ma possiamo comunque continuare a descrivere un attimo la musica. È un rock progressivo, sì. Però è un rock molto attuale, nel senso che sì, ci sono gli stilemi classici del progressivo sia italiano che inglese degli anni 70, però ovviamente la musica si è evoluta e ci sono anche degli schemi, canzoni anche nel corso del disco che sono sicuramente più verso il pop. Sì, allora il disco è pronto per partire e quindi ci ascoltiamo due tracce, una vicino all'altra, e poi torniamo qui in diretta a commentarle insieme. Thank you. Blu Radio Veneto. Abbiamo ascoltato con grande piacere i Quanah Parker qui con questo loro lavoro di un paio d'anni fa o è appena uscito, però sì, probabilmente la registrazione dell'altro anno forse. Ah sì, perché leggevo del 2011 il messaggio, poi invece ho visto che la data è molto più è uscito comunque recente. Un po' più avanti, ma comunque è recentissimo il lavoro. Un'atmosfera molto progressiva questa che abbiamo letto all'interno del brano. È proprio legato a un certo tipo di prog, però secondo me la strumentazione, l'interpretazione, probabilmente anche le personalità dei nuovi musicisti l'hanno secondo me reso molto più fresco. Anche perché sentivo un po' di Hackett verso la fine del pezzo. È bello perché stiamo citando qui, ascoltando, sentivamo gli Yes, sentivamo si sente un po' tutta l'atmosfera. D'altronde sai, è facile, dopo che abbiamo ascoltato per anni qualcosa, trovare in una canzone comunque quella nota che si è sentita quel giro famoso. Ma d'altronde veniamo tutti da quella parte. Ma sì, ecco. Comunque secondo me la cosa bella di questo disco è che contiene dei brani che sono veramente originali dell'epoca e sono stati riarrangiati adesso, quindi erano dei pezzi che erano rimasti in cassette, erano circolati come dei demo così, e non sono pezzi nuovi fatti ora, quindi in qualche modo è veramente prog dannata in qualche modo, perché sono pezzi 82-83, quindi era un periodo in poi in cui non era facile suonare questo genere di cose, perché era più un periodo di new wave, di elettronica eccetera, e Riccardo ha avuto il coraggio di portare sempre avanti questi pezzi e di farli anche in arrangiamenti diversi, fino a che ha trovato una stabilità adesso con una formazione perfetta. Quindi anzi, li ricordo anche i musicisti, che sono Riccardo Scivales alle tastiere, Elisabetta Montino alla voce, Giuseppe Di Stefano al basso, Giovanni Pirrotta alla chitarra, e alla batteria ci sono due batteristi diversi che si alternano, Paolo Ungaro e Massimiliano, di cui mi sfugge il cognome. Comunque. Se dopo ti viene lo dice. Comunque Flavio, allora lo dicevamo fuori onda, e invitiamo già i Quanah Parker a venire in radio. Certo, adesso li invitiamo ufficialmente, venite quando siete liberi, programmiamo insieme una serata. Sì, credo che stiano ascoltando, ma comunque passeremo parole. Benissimo. Già problema. Ok, allora chiusa la parentesi riservata ai Quanah Parker, andiamo con un altro disco che vuoi presentarci, Alessandro. Sì, allora questo è un disco a cui tengo molto, perché è stato un collaboratore del nostro collettivo, e Massimo Berizzi ha fatto il suo primo album adesso, è un musicista che ha una carriera abbastanza lunga alle spalle di collaborazioni, e l'ho incoraggiato moltissimo a pubblicare un suo disco, perché recentemente mi ha dato dei dischi bellissimi di demo fatti in casa, assolutamente splendidi. Lui è un trombettista, ma usa la tromba in una maniera molto particolare, potrò ricordare in un'area tra John Hassell, Markus Stockhausen, tra l'elettronica e il jazz, qualcosa dell'ECM, però è curioso perché c'è una cantante norvegese, quindi è un lavoro abbastanza ibrido. Io ho partecipato con degli strumenti, tra le percussioni basso, ed è venuto fuori un lavoro che secondo me è molto interessante. Beh, parlando di ECM, Jan Garpare, che è norvegese, no? Esatto, sì. Per cui, insomma, ci siamo. Sì. Allora ci ascoltiamo questo pezzo, l'album di Massimo Berizzi si intitola Spirali, e questa è Multi Folklore, eccola qua. Thank you. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E abbiamo ascoltato un pezzo di Massimo Berizzi, Spirali si intitola il suo lavoro, che vede la collaborazione di Alessandro Monti che è qui con noi. Multifolklore si intitola il pezzo ed è un etno jazz per eccellenza questo pezzo. Direi che è proprio la definizione giusta, ma un po' di tutto l'album direi, etno jazz anche con parecchia elettronica all'interno. Sì. E poi ricordiamo che all'interno c'è anche la voce di Oddrum Eichli, che appunto ho citata prima come special guest all'interno del sì, disco. È un uso molto spaziale. Anche qui c'è una bellissima cosa che è successa in rete, perché l'ha conosciuta attraverso, credo, MySpace Massimo, quindi ci sono sempre scambiati delle cose. Alla fine lei ha mandato dei file, Massimo li ha trasformati e lei è stata contentissima del risultato. L'importanza della globalizzazione in questo caso. Allora, siamo giunti anche effettivamente al di là del tempo che ci eravamo dati, vero Flavio? Sì, lo siamo arrivati, giusto anche ringraziando Alberto Prisco che ci ha ceduto una parte importante di quella che normalmente è la sua trasmissione, che parla di Rock Wave. La classifica questa sera non c'è, noi quindi abbiamo potuto spaziare e volevo, andare più volevo là. Salutarlo personalmente perché mi ha anche contattato, per cui sì, certo, diciamo che è stato gentilissimo comunque. Fa anche la parte di coordinatore di queste serate live quindi lo conoscerai prossimamente quando ci porterai anche i Quanad Parker piuttosto che Massimo Berizzi a questo punto, no? Spererei di esserci anche con Massimo, perché stiamo preparare qualcosa personale dal vivo di questo disco, per cui penso che potrebbe essere realizzabile nei prossimi mesi, vediamo insomma. Ecco, io volevo ringraziare Nino Destra che è rimasto con noi silenziosamente ma ha fatto la sua parte, sì. In ogni caso e la fa come giustamente distributore dei lavori di Unfolk e di tutta l'etichetta di Plodisc. Ringrazio Flavio che ci ha seguito e ovviamente un grande ringraziamento ad Alessandro che è stato con noi per queste splendide due ore. Benissimo, allora prima di salutarci definitivamente volevamo fare un altro inserimento di un disco che ci ascolteremo dopo i nostri saluti. In questo caso parliamo di Sidera Noctis. Sì, non è diciamo un disco collegato alla nostra etichetta, perché è uscito perché è un'autoproduzione proprio del gruppo, però sono amicissimi nostri. Dentro c'è anche una mia insegnante di musica, quindi in qualche modo è veramente un qualcosa di speciale. Mauro Martello suona il flauto, è un po' diciamo il leader del gruppo. Mauro attualmente è impegnato su molti progetti che vanno dal barocco ai Jethro Tull, ma comunque recentemente ha fatto un'apparizione con gli Opus Avantra nei concerti a Tokyo, credo, quindi sta ampliando moltissimo il suo raggio d'azione. Questo gruppo è un gruppo che mescola in maniera abbastanza anomala quello che è la musica classica rinascimentale, le gighe, fino al rock progressivo. E l'ultimo brano che ascolteremo stasera, che si chiama Keplero, è un brano che ha numerosissime influenze, però si sente questa batteria che arriva ed è alla fine del disco, in qualche modo ti fa capire da dove provengono i musicisti. Certo, allora ricordiamo che questa trasmissione è stata registrata dopo questo evento live e sarà disponibile all'interno dei nostri podcast, quindi dove trovate la notizia riservata sempre ad Alessandro Monti, al progetto Unfolk e al progetto di Il Libro Veneziano dei Morti, troverete appunto la possibilità di riascoltare la trasmissione e quindi anche riascoltare quelli che sono i commenti legati alle musicalità che abbiamo ascoltato in questa serata. Inoltre all'interno di Facebook posteremo nel breve alcune foto che abbiamo scattato proprio per documentare l'evento, anche se sappiamo che la radio non è fatta tanto di immagini quanto di ascolti, ma ogni tanto una foto fa sempre bene. Allora abbiamo detto tutto, quindi l'ultima canzone che andrà è quella a chiusura dell'intera trasmissione ed è appunto Sidera Noctis, come dicevi Alessandro, si intitola Keplero. Sì, la formazione è abbastanza anomala, sono due flauti, una voce con viola da gamba e una tastiera elettronica. quindi è abbastanza curioso. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo. Allora, abbiamo detto proprio tutto, quindi Blue Time Live può finire qua. Allora, grazie Vannuccio di essere stato qui presente a commentare, ad aiutarmi in maniera molto importante e determinante in questa serata. Comunque grazie a chi ci ha ascoltato e grazie all'organizzazione, naturalmente. Benissimo, salutiamo anche Tonino Destra. E poi vi ringrazio Alessandro, ovviamente, di aver ospitato tutto questo spazio per la nostra musica. Spero che saranno altre le occasioni con altri musicisti del nostro gruppo, ma sicuramente Quana Parker la prossima volta. Benissimo, allora grazie ancora a tutti, quindi Blue Time Live può finire qua. Un saluto a tutti e buonanotte da parte di Flavio Bilato. Grazie, ciao. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave. Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time.